No, non è successo nulla. E mi fermo da voi che dà la 2004 corsie. Se Nicola si è dato a Montalvaro, se no gli ha preso un luogo. No, quando mai. Spero che ne sia andato Leonardo pure. Leonardo? No, io mai. Non credo che sia. Più bella, Ma che ne viene a me da stamani, eh? E infatti ha detto, va, e ci daremo a punire un cappetto. Scattato l'estero con Ruio, va a fanculo. Cazzo, ha fatto Ruio, ha fatto Velli, ha fatto e manco un minuto, cazzo, torna giallo Ruio, a vagazza suia. Mira, scusa, te ne vuoi il talone. Ehi, no, non vuoi il talone? No. Che ve ne sarà a ponte, chi fa l'enne? Ho lavato qui, ci sono passato l'ordine industriale. Se c'è il mercato di Mona, esce verso. Ha portato una zona su ponte. La cattola? Sì, non è vero. Io vedo le dimette da Chigi, che sto fare, pieno di pacciotto sempre. Io ho il supermercato nuovo, tutti i giorni che è dentro Chigi, vedi com'è la cosa. Vale, inondi. La rotatoria di questi. Traffico hai avuto chi? No, scorrevolissima, se passi chi fai pure prima. No, scorrevole. Ma scorrevole a che ora è? Oggi è scorrevole, la fine non ne gioco. Ah vai, passate da scorrevolissima. Ma ieri tutta canta città mercato io, tutta canta intanata Mi era succulente cazzo, un altro cancello chiuso, gli ho visto, gli ho detto ma. E lo è manco Giorgio! Se no fatene fuori pure idumi, avanti ad aspettarmi, manco è. Ma chi ce l'ha ad aspettare? Dici che ha fatto le botte a Don Fabio, quindi da avali a dire la bene. Le botte a Fabio ha fatto, l'hanno preso, ma chi credo ce l'hanno mandato, non è che è quella di Giorgio, no? Dici che idumi a te si ha fatto la parte sua, io, voce del popolo, io. Io ho chiesto che mi hanno detto, sto dicendo. E che parte soglia poteva fare cosa poteva fare? Non so, a testimonianza chi è che è andato. Flavio mi l'ha detta. Se ti capitiglia, precottalo. La colpa è di Giorgio e di. E di cosa? Di Stefano. Ah, uscì, hanno fatto le Skype. Ma chi dice che tenia la locazione di brutto, non era in Noldeni, è trascurato, ci andava prima. Cioè, ma se Giorgio non c'era, ma poteva andare con la cacciatrucci, cosa poteva, o era già entrato, non dire, Giorgio mi pare che era con 2 PC. Oh, era invertita. Aveva un peso che era 2 PC ed era entrato quando se ne era andato Fabio. Era invertita. Cosa pure me la ditta a me? Ma sai che Michele. Michele Campana. E Michele ha detto pure. Ha detto. Ammettiamo che abbia. Che sia stato vero le cose. E già fai da dove? Ammettiamo che sia stato vero. Però idi. Che bisogno non io andare di queste cose. E che la sede generale. Già è vero, già era trascurato, era trascurato magari, ma chi? Però in effetti ha ragione, guarda scendendo mi ho una scusata la coletta. Accendendo le macchine ancora, ma che non ha pure fede, io ho visto. Abbassato il cassone fermo, caschetto, giubbino e via andando. Io giretta l'NP e il gioco è fatto. Dai, vediamo una persona qui in questa gabinetta, io. Comunque ha detto che l'hanno chiamato da un'unica cestruzia, Fabio, e non è andato chi dice che stava attenti in presenza, sarebbe buono. Ehi, la unica tu, stai andando a ma com'era? All'opposto di. di cosa? D'Antonello Sini. Perché Antonello Sini? Non te l'hai mandato? Andando a pensione. Antonello dice che è ma com'era? Era, era, però era pure cosa ma com'era? Giampiero me. No, Giampiero Vagilu, commerciale o una cosa del genere, ma com'era il Nulbe, Ande Torre, ha diversi impianti Giampiero, sei via l'impiantista e ma com'era, sei l'impiantista e ma com'era, mi ha detto proprio Giampiero, ha detto come ho detto a Fabio, che sono di la Umbria, la Calcestrucci, non so cosa indettivamente Torre fosse, mi Torre Sancio, che fosse l'ha iniettato a Fabio, vedi, invece mi pare che ha detto che non era interessato, cioè che non era interessante, c'è chi dava che era dei sacerdoti. È stato magari, forse era, perché tu avevano detto siamo isti, Breccia, Giampiero, Lusatiali, perché tu Lusatiali con Monica, se ne vanno a casa dello papo, no? Se lo visti, Breccia, che è bello, Giampiero, sai che suo periodo gioco in Macomero, magari che suo periodo forse era. Ehi, ehi, ehi, vai a vedere nel luogo, fai del naffi, andrene, trene, ci fa la... No, la cazzo c'è proprio in giorno mi pare. Ehi, lo so fendigli la merda, merda, merda. Ma però ha visto che già la trevetta, ma temendo. Io. Spera che tu vecchi tu gino, io. Tu. Ma se ne vale senza attrezzatura. Allora socio. Oh, abbiamo quanta sola o invertimo, dai. Nota a Garigio Orizzone, dai, su 02, dai. Signor 02 non ve ne state. Sento 10, c'è qualcuno? 5-10. Ciao Claudio, ben risentito. È un po' nasino, ti sei abbassato anche di segnale, leggermente rumore di ventola, non so cosa, se l'alimentatore o da cosa dipende. Sembra la citofonica, non è che, cioè è comprensibile sì, però non è un granché. Esci molto meglio in altre situazioni. E attacca l'altro, l'85, dai, che è con quello è più favorevole come qualità. Ah, faccio una chiamata qua. Attenzione al canale 10, chi vuole entrare, avanti. Sì, ci sono, avanti qua. Il segnale è un po' più forte, però così, meglio dell'altra, ma sempre un po' nasina, intubata, come stai parlando dentro un tubo. No, no, è chiara, però non è corposa la modulazione, è molto ricca di tonalità medie e acute, non hai quell'effetto di bassi pieno, un po' più carico. No, adesso sai, mi ha migliorato tantissimo, non so cosa hai toccato, come hai riparlato la modulazione è bella chiara, non dico che sia paragonabile a quella che hai nominato tu all'85, però è bella chiara adesso, salita di livello, non so se hai toccato o ti sei avvicinato al microfono. Sì, rispetto a prima è totalmente. Dimmi poi, torni come ce li hai. Mettili per curiosità a manetta. Nulla, chiudili a zero adesso. Lasciali a zero, la posizione migliore è questa, sennò sembra troppo scatoletta quando li sollevi e basta. Questa è la posizione migliore. Tra lo zero, poco fa, li hai a due, però attenuandoli ancora di più è migliorato. Va bene così, non toccarli, è ultima. Ma tu in banda laterale o li colleghi o in AM? L'altro giorno, ieri a Mantiere, non mi ricordo, arrivavano molto furti, 8, quasi 9 arrivavano in AM degli americani, però non è che hai insistito, ho fatto un paio di chiamate, poi erano tra di loro, stavano parlando, non è detto che mi ascoltassero, però arrivavano abbastanza bene. Ma poco fa ero su altre bande, ho fatto qualche diplomino, qualche punteggio nel diploma per salire in classifica, sono 21esimo, sono arrivato, i primi sono irraggiungibili e ne sto facendo diverse. E poi c'era questo turco collegato alla Turchia poco fa, ho provato Sudafrica e cosa c'era poi, adesso non mi ricordo, però non sono riuscito a entrare, c'era troppa confusione, dai, poi quando sono segnali che ti disturbano ho lasciato perdere, dai, andiamo a fare in altre situazioni. Di nuovo a te Claudio. Adesso pure gli americani non badano a spese, è a potenze, è ad antenne. Ho visto degli impianti, non parliamo di impianti radioamatoriali, che di lì non c'è storia per nessuno, impianti da, da fantascienza per noi, per i poveri CB e i poveri OM, ma anche ci sono dei CB che hanno delle stazioni che se le sognano anche i radioamatori evoluti, vedo degli impianti di antenna, che poi di lì molte volte ci sono tanti gente che sta, per dire, in territori isolati, non è per dire come a New York ci sarà qualche CB, ma non penso che si metta a modulare, perché normalmente sono in queste zone, Arizona, Nevada, dove ci sono terreni allucinanti, chilometri, migliaia di chilometri di coso, di deserto, di colline, di pianura, dove piatti un'antenna, ti gira una direttiva, te la punti verso l'Europa e parli tutti i giorni con l'Europa. Un attimino, Clara, che rispondo al telefono, scusami. Eccomi, ci sei ancora, Claudio? Sì, ok, aspetta, c'è qualcuno sotto. Avanti, chi vuole entrare? C'è un po' di propagazione, però vedi, quella propagazione brutta, che si sovrappongono e non si capisce niente. Allora, eppure non c'è problema, tanto sono qua. Nel frattempo facciamo una chiamata qua sul 10. Attenzione, canale 10, chi vuole entrare, avanti con la buonasera. Eccomi. Aspetta, scusa un attimino che abbasso il volume dell'altra radio, se non mi disturba. Eccomi. No, no, questa è sempre l'assurdità, io non tocco mai niente, sempre la potenza è quella lì e non tocco niente, posso salire ma non mi interessa. Non so che dirti, qua l'alimentazione è 13,52, la potenza è la solita, quella della parata, l'antenna è uguale, a meno che, come dice qualcuno, gli ho spruzzato lo spray per le stazionarie, l'antenna è più potente. Non lo so, è sempre uguale. Io ti ascolto come ieri, quasi 9+20 il segnale, poco meno di 9+20, perfetta la modulazione, nient'altro da criticare. Ottimo. Nominava spesso questo Catalina, l'ha avuto credo in gioventù, dai, perché sono apparati americani che hanno fatto la storia della mandarci italiana. No, io sto trattando per un apparato, già ti dirò più avanti, una cosa abbastanza importante, dai. Vediamo un pochettino, è capitata un'occasione, adesso gli ho mandato il messaggio, qua in Sardegna, dovrò andare verso Cagliari per vederlo, poi ti dirò di cosa stiamo parlando, una radio di un certo livello, dai, non un giocattolino, sicuramente, una radio di nuova generazione con Waterfall, analizzatore di spettro, eccetera, eccetera, dai, una radio più recente di quelle che utilizzo normalmente e con prestazioni sicuramente superiori. Poco fa ho girato un secondino sull'11, stavano arrivando 9, c'erano dei russi sotto, 9, S9 era il segnale, una bomba. Vabbè, riprendi tu, poi c'erano della propagazione, però non si capiva niente. Di nuovo riprenditi il mic. stanza di base mi piacciono, me ne sono rimaste una, due, tre, quattro ne ho di base. E poi c'è una 48, cazzo, scusa, mi telefono un attimo. Scusami Cla, una telefonata, avanti di nuovo. Sì, quando vuoi non c'è problema, passa. Di cognome come fa? Divona questo, così possibile? Questo Nicola. Ma io ricordavo Divona, chissà, una persona, come fa di cognome se lo vuoi dire? Sai perché ti ho fatto questa domanda? Siccome quella persona di Ozieri che ti ho detto che si sta mettendo la radio e tutto, io gli avevo detto quel cognome che ti ho detto di Vona, ha detto buh, io non lo conosco, non lo conosco. Questo Nicola c'ha un cognome sardo o continentale, quindi non è un cognome sardo. Ok, vabbè, no, io ho sbagliato cognome allora, perché ho detto si chiama Nicola Di Vona, invece non c'entra niente, ho fatto un miscuglio, quello Di Vona è un'altra persona, ok, come non detto allora, ok, dai, va bene, sicuramente lo conosce, ho detto, ma lui mi ha detto che fa anche il camionista questo Nicola, non è così? Cognome, no, anche questo è camionista, cioè non è il suo, della ditta, una bestia di camion, uno Scania che è di proprio gli ultimi modelli, bellissimo, nuovo. Claudio, però devo lasciare, devo andare a prendere mia figlia che mi ha chiamato. Dai, Mari, se coincide dopo, più tardi, non sono sicuro di entrare, ci provo. Dai, se ci sei, ci salutiamo. Che devo andare via. Scusami, però devo interrompere. Ciao, ciao, grazie della chiacchierata. Avremo modo di sentirci, dai, magari anche di persona. Ciao, Claudio, stammi bene. Saluto a tuo babbo, tua mamma e Ottavio. 7-3 a tutti. Ciao, ciao. Y tú has comido tan sano, varón. ¿La qué? Déjame decirte, tremendo negocio.